Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Dal luppolo della birra sintetizzate nuove molecole in grado di inibire i meccanismi che permettono alle cellule tumorali di procurarsi ossigeno e di diffondersi nell'organismo. Lo studio è frutto di una collaborazione tra l'Istituto Multimedica di Milano, l'Università di Pisa, l'Università dell'Insubria di Varese e a Obiettivo Salute la professoressa Adriana Albini, direttrice del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di Multimedica e direttore scientifico della Fondazione Multimedica Medica Onlus. Noi abbiamo studiato un derivato del luppolo della birra che si chiama xantumolo, nome difficile ma semplicemente un polifenolo come altri che conosciamo come quelli del tè verde o del vino rosso, che è molto interessante, ha tante proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, potrebbe essere un preventivo dei tumori se verificato ulteriormente, antiangiogenico, quello che abbiamo visto noi, ma in particolare con l'Università di Pisa abbiamo prodotto delle nuove molecole che assomigliano a xantumolo ma potrebbero avere delle proprietà farmacologiche migliori. Naturalmente il fatto che sia contenuto nel luppolo della birra, quindi nelle birre un po' amare tipo l'IPA, non suggerisce però che dobbiamo fare prevenzione bevendo tanta birra, perché è calorica e alcolica, e uno dei motivi per cui noi ne abbiamo fatto un prodotto di sintesi è proprio quello di poter essere usato come un composto terapeutico senza esagerare con la birra. Su Lancet, mega studio in 17 paesi sui benefici del movimento per la salute sessuale maschile. A Obiettivo Salute il professor Andrea Salonia, urologo-andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano. Lo studio pubblicato da Lancet è monumentale perché coinvolge 130.000 persone seguite, alle quali è stata chiesta di fare attività fisica, ed è stato dimostrato come 30 minuti di attività fisica per 5 giorni alla settimana siano associati ad una riduzione significativa del rischio di morte dei medesimi e del rischio di malattie cardiocircolatorie. D'altro canto, lo studio dell'importanza dell'attività fisica nella preservazione della salute, anche solo della salute genitale, della salute sessuale, non è nuovo. I dati dimostrano come almeno 10.000 passi al giorno siano sufficienti per migliorare la qualità dell'erezione, che a sua volta è un fattore importante nella preservazione dell'attività cardiocircolatoria dell'individuo. Oggi è la giornata mondiale del cuore e di cuore e delle regole e delle attenzioni per mantenerlo giovane e sano. Parliamo tra pochissimo nella nostra diretta Facebook, ma vi invito anche a visitare la pagina speciale di Obiettivo Salute, dove potete ascoltare i commenti e i consigli di tanti esperti per mantenere una buona relazione con il nostro amico. Per oggi è tutto, Obiettivo Salute termina qua, ma la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi invito alla nostra diretta Facebook per parlare di cuore. Noi ci sentiamo domani alle 12 per Obiettivo Salute Weekend. Buona giornata da Nicoletta.